Siamo con il giornalista Giuliano Santoro per parlare dell'iniziativa dal titolo Periferie contro Roma, il potere dai margini al Casale Garibaldi a Roma il prossimo 11 maggio. Giuliano, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. Diamo un quadro dell'iniziativa e come si inserisce questa giornata. Ne parli tu, Giuliano? L'iniziativa si inserisce in un ciclo di seminari, di lezioni che avevamo iniziato con un gruppo di attivisti, di ricercatori, di comunicatori indipendenti, si aveva iniziato a costruire insieme ad Antonello Sogge e Rostella Marchini, che sono gli urbanisti di movimento, architetti, urbanisti di movimento, che hanno segnato con uno stile il modo di guardare la città, il modo di guardare i conflitti dentro la città. E Antonello ci ha lasciato in dicembre e quindi questo ciclo di lezioni si è trasformato in un ciclo di incontri in suo onore e tutti gli incontri in maniera diversa, con biografie diverse e profili diversi, in qualche modo restituiscono alcune delle cose che a Antonello piacevano e lo appassionavano, soprattutto il modo di guardare la città in una maniera completamente diversa dai canoni ufficiali. In questa serata, in questo pomeriggio sera, il titolo del tuo intervento è Il potere dai margini. Ci anticipi qualcosa? L'idea era di partire sul ragionamento con le periferie e su come vengono raccontate. Il titolo Il potere dai margini viene da una cambiando da una parafrasi tratta da un libro di uno storico che si chiama David Forgak, che ha scritto un libro sul potere dei margini, come il potere si esplica nel definire cosa è marginale, quindi nel raffigurarlo in quanto tale e in questo modo costruire delle gerarchie. E invece ribaltare questa, la mia idea era ribaltare questa cosa, provare a costruire un ragionamento su come la città viene raccontata, su come vengono tracciati dei confini e dei margini dentro la città, soprattutto Roma, ma non solo, e che però cercare di dire come le città vengono definite da ciò che sta ai loro margini. Come vive questo scontro, la città e la sua periferia? Intanto c'è da chiarire un elemento che già ci pone un problema, nel senso che se assumiamo che Roma è una metropoli, dobbiamo iniziare ad assumere anche il fatto che non c'è una metropoli, un luogo con tanti centri e quindi che la dialettica tra centro e periferia in qualche modo passa in secondo piano, non c'è un vero e proprio centro e non c'è una vera e propria periferia, perlomeno in linea di tendenza, perché ovviamente Sì. sappiamo bene che non è così. Una delle cose che ho osservato guardando la storia di questa città è che i momenti migliori sono sempre stati dati nel momento in cui la periferia è riuscita in qualche modo ad attraversare e occupare il centro. È che questa dinamica si è bloccata da qualche anno, cioè le periferie romane Roma è costituita da un arcipelago di quartieri che sono sparpagliati e dispersi tra di loro. Dal punto di vista metaforico possiamo, e però molto concreto, possiamo racchiudere questo elemento nella linea C della metropolitana, che fino a poco tempo fa praticamente portava da una zona semiperiferica a una zona di estrema periferia. È l'unica linea della metropolitana, forse mondiale, che non conduce verso il centro o comunque che non attraversa la città. E questa è una delle anomalie che sicuramente si verifica negli ultimi anni e che si è concretizzata indubbiamente con il piano regolatore varato da Veltroni nel 2008, contro cui diversi movimenti urbanisti hanno cercato di scontrarsi. Le famose centralità urbane di Veltroni, costruite fondamentalmente attorno a speculazioni edilizie e soprattutto attorno a centri commerciali, disegnavano una città in cui le periferie non avevano assolutamente nessuna dialettica col centro, né conflittuale né pacificata, è semplicemente una città completamente smembrata. Roma è una città enorme, peraltro, una città che è grande quanto i cui territori è grande quanto tutte le otto capitali europee, escluse Parigi e Londra, mi sembra. Quindi una città sconfinata. Se si escludono le banlieue e si considera solo la città di Parigi, questa tipo attraversare a piedi circa 2 ore e mezza, per attraversare appunto come un diametro, voglio attraversare da un lato all'altro, da un punto cardinale a un altro. Sappiamo benissimo che per Roma non è così, è una città molto strana da questo punto di vista. In questo senso, com'è possibile o se lo hai individuato, comunque un protagonismo delle tante periferie? Guarda, intanto secondo me appunto smettendo di considerarsi luoghi marginali, c'è una trappola in cui si rischia di cadere, che è quella essenzialmente di accettare il terreno che viene raccontato dalle narrazioni ufficiali, dai media mainstream, dai film, dalla pubblicità, dalle cronache dei giornali, per cui le periferie sarebbero in mano a una sorta di legge della giungla. È in mano a una specie di, in cui si abbassa essenzialmente la soglia della vivibilità, della sensibilità, della solidarietà, in cui quasi bisogna farci l'abitudine di avere a che fare con un livello più basso. Questo non è vero, una cosa che mi ha sorpreso tantissimo, scoprire per esempio è stata che quando negli anni 70 si celebrarono i referendum sui diritti civili, sul divorzio e sull'aborto, se si va a vedere il flusso elettorale, i luoghi in cui questi diritti vennero accolti, quei diritti che in qualche modo rompevano con una tradizione ed erano abbastanza dirompenti rispetto alle forme a cui si era abituati della società, i consensi più grossi venivano dai quartieri dove vivevano le baracche, dove vivevano da quartieri informali in cui non c'era l'acqua corrente, non c'erano le fogne. Per cui una delle prime cose che troppo spesso rischiamo di subire è di considerare il sottoproletariato come una forma che va organizzata, ma avendo una certa tolleranza rispetto avendo una manica larga rispetto a delle cattive abitudini. E questa cosa non è assolutamente vera. I grandi diritti sono stati conquistati ovviamente con un lavoro di base, con un'organizzazione che lavorava nelle periferie, ma c'è stata una grande sensibilità quando questa si è dispiegata. Esattamente, c'è stata un'apertura mentale in questi luoghi molto maggiore che nei luoghi del centro e che in luoghi considerati, tra virgolette, più civili. Quindi io tenderei a ribaltare le prospettive, tenderei a guardare la città come un luogo, quantomeno come un tutt'uno, seppure è molto difficile fare questo. Una delle cose a cui sono arrivato ragionando su questo seminario è che in qualche modo non esiste un pensiero reazionario sulle città. I reazionari di ogni tipo, anche quelli nascosti, anche quelli che a parole si dicono progressisti, vedono e raccontano la città e l'analizzano sempre come un luogo di minaccia. Questo vivere in comune di tantissime persone che trovano, che costruiscono reti informali, che solidarizzano tra di loro, che costruiscono forme di cooperazione, non può essere letto con le lenti del pensiero reazionario, che ha sempre immaginato un modo, la città quantomeno come un male necessario, ecco, ma non come luogo per elezione della politica e dell'azione collettiva. Anche perché Roma, come altre città, ma insomma, partiamo da Roma, è sempre stato luogo di incontro di persone delle più svariate provenienze. Quintino Sella, quando ci fu l'Unità d'Italia, disse che non ci devono essere fabbriche a Roma perché non vogliamo che la classe operaia disturbi la capitale dell'Italia Unita. Aveva grande paura dell'urbanizzazione, il fascismo fece le leggi contro l'urbanizzazione, secondo cui non si godevano di diritti se non si aveva una residenza in una casa che non fosse abusiva. E però Roma, nonostante questo, fino agli anni 70 è cresciuta con centinaia di migliaia di persone che vivevano in residenze abusive, e solo negli anni 60 viene attuata la Costituzione e non c'è più, e i diritti di cittadinanza non sono vincolati all'avere una residenza in una casa normale. Sappiamo bene che il decreto Lupi e le leggi di questi ultimi anni ci hanno riportato quasi all'indietro, riportando quasi alla clandestinità quelli che vivono in case occupate o comunque in luoghi che non vengono riconosciuti come residenze legali, tra virgolette. E la storia di Roma è esattamente questa. La storia di Roma è una storia di una città che, nonostante la retorica, la città imperiale, la capitale dell'impero, la città dove c'è il Vaticano, è cresciuta nel bene e nel male, perché ovviamente non è solo un fenomeno da guardare come forma di romanticismo, ma è un fenomeno che ci pone dei problemi, è cresciuta in maniera selvaggia e spontanea, un po' la città coloniale che diceva Pasolini, no? Una città che cresce come le capitali del mondo improvvisamente in maniera smisurata. Giuliano, allora ricordiamo l'appuntamento Periferie contro Roma, epica, etica, estetica e classi nella metropoli che non c'è, 11 maggio al Casale Garibaldi qui a Roma, il potere dai margini con Giuliano Santoro, l'orario Giuliano? Alle 6:30 c'è una specie di prequel di Andrea Benedetti che sta facendo da ogni lezione, anticipa ogni lezione con una storia della musica elettronica e della techno come forma di sottocultura, insomma. E poi subito dopo, quindi immagino verso le 7:30, ci sarà la mia relazione che si pensa come forma laboratoriale molto aperta. Quindi si spera il più possibile che sia una discussione collettiva più che una relazione telescopica. E ancora più tardi assaggi di periferia con street food dal mondo. Giuliano, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Ciao, grazie a tutti.